punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Preso Iovine, il capo dei casalesi, il ministro Maroni esulta, è l'antimafia dei fatti, prove di pace con Saviano. Questa settimana partiamo da una buona notizia, un po' perché le buone notizie ci piacciono, sai, un po' perché nel nostro appuntamento con la settimana vista con gli occhi e le orecchie naturalmente di Radio 24 siamo soliti raccontarvi soprattutto dei problemi, delle complessità di questo nostro tempo. Insomma, cambiare ci fa piacere e al di là dell'inevitabile, direi, corollario di polemiche collegate, questa è senza dubbio una buona notizia. Allora, ripartiamo dalla cronaca che abbiamo mandato in onda giovedì mattina. La polizia l'ha trovato ed arrestato nella casa di un insospettabile incensurato nella quinta traversa di via Cavour a Casal di Principe. Fondamentali nelle indagini per la cattura le intercettazioni telefoniche, come ha spiegato il procuratore capo di Napoli, Gian Domenico Lepore. L'arresto di Iovine è la conferma che attraverso le intercettazioni riusciamo identificare oggi le persone e arrestare, non soltanto acquisire elementi di prova, ma addirittura qui catturiamo i latitanti. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ecco il commento del ministro dell'Interno Roberto Maroni, intervistato da Elisabetta Fiorito. Un arresto eccellente, il capo della Camorra, Antonio Iovine, latitante da 14 anni, arrestato dalla squadra catturandi di Napoli, che domani andrò a incontrare. Un arresto che arriva in un momento di polemiche tra lei e Saviano. Questa è l'antimafia dei fatti, quella che noi mettiamo in atto. Il resto sono polemiche che non mi toccano e non mi turbano. Ci sono molti latitanti che sono stati catturati negli ultimi tempi. Catturati 28 dall'inizio del mandato del governo, nell'elenco dei 30 più pericolosi. Uno al mese, ne mancano due, Matteo Messina Denaro e Zagaria, e sono fiducioso che molto presto anche loro saranno assicurati alla giustizia. Ancora un saluto, cari ascoltatori, buongiorno da Gigi Donelli, Pietro Lacorte stamattina in regia con me. Noi ripartiamo da Antonio Iovine. Antonio Iovine, pensate, è stato condannato all'ergastolo al termine del cosiddetto processo Spartacus. La pubblica accusa era tenuta da Raffaele Cantone, magistrato di Cassazione, oggi PM anticamorra della DDA di Napoli. È stato nostro ospite e lo sentiamo, intervistato dal nostro Alessandro Milan, che tutte le mattine si fa la levataccia per tenerci aggiornati sulla cronaca. 24 mattino. L'intervista. Saluto il magistrato Raffaele Cantone, buongiorno dottor Cantone. Buongiorno a lei, buongiorno. Magistrato di Cassazione, per anni è stato nel PM anticamorra nella DDA di Napoli, è stato anche la pubblica accusa al processo Spartacus, quello in cui Antonio Iovine è stato condannato all'ergastolo. Tra l'altro voglio ricordare, da un paio di giorni in libreria con un libro scritto con Gianluca Di Feo dal titolo I Gattopardi, poi le farò una domanda su questo. Intanto, dottor Cantone, perché Iovine ride quando viene arrestato? Ma è strana quella risata, a me è sembrata una risata nervosa, però è anche un po' una risata di sfida, cioè io credo che Iovine volesse dimostrare che tutto sommato lui non aveva paura dell'arresto, è un po' un atteggiamento tipico dei boss, quello di dimostrarsi insensibili rispetto al momento in cui lo Stato interviene. Perché a volte io magari credo... a volte si coprono, a volte, invece stavolta... Ma il boss quasi mai, in genere i gregari, i boss si fanno vedere, perché comunque quello è un momento che, malgrado sia un momento per loro di sconfitta, è un momento di grande visibilità anche per una loro mentalità, quindi io non trovo particolarmente strano il fatto che Iovine abbia riso. È forse solo surreale vedere l'immagine, i poliziotti che ridevano e lui anche che rideva in mezzo. In ogni caso, il fatto che sia arrestato a Casal di Principe, cioè nel suo territorio, cosa significa? Ma secondo me significa due cose. Significa innanzitutto che una serie di coperture sono chiaramente saltate, nel senso che in quella realtà, da quella realtà lui non si è mai spostato. Lui è stato, diciamo, per lungo tempo sicuramente fra Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa, quindi è sintomatico che sia stato arrestato lì, vuol dire che molti molte di quelle che erano le sue coperture, che lui, di cui lui gode da anni, sono saltate. Ma c'è anche un altro aspetto che è importante, e la riprova stando a Casal di Principe, che ormai lui era diventato il vertice dei casalesi, quindi doppio valore dal punto di vista dell'indagine e anche grande valore simbolico di uno Stato che si riappropria del territorio arrestando il boss a casa sua o in una casa che gestisce. A me ha colpito ieri quando ho visto in TV i vicini di casa che dicevano non l'ho mai visto eccetera, ma dobbiamo davvero stupirci che una persona al vicino di casa di Iovine dica non l'ho mai visto? Io non è che mi stupisco molto, sarò un po' scorretto in questo. Ma io non mi stupisco e non escluderei neanche che non sia vero. Prima di tutto, un boss come Iovine non è uno di quelli che si fa vedere e si mette in mostra. Un boss come Iovine probabilmente veramente non si fa vedere dai vicini, perché se lui è riuscito ad avere 14 anni di latitanza è proprio perché è stato copestissimo, diremmo dal punto di vista tecnico. Quindi non mi meraviglia. Certo, ci può essere anche una chiave di lettura, diciamo, collegata all'omertà, ma io tenderei a pensare che davvero Iovine, che era un uomo cautissimo, non si sia fatto vedere neanche dai suoi vicini. Non so voi, ma l'ho trovata molto interessante questa conversazione appunto mattutina con chi quotidianamente lavora all'interno di veri e propri mondi paralleli per la maggior parte di noi. Non so cosa ne pensiate, ma mi ha colpito molto anche l'impressionante, trovo, immagine che emerge della vita di un boss. 14 anni vissuti senza farsi vedere dai vicini o comunque il minimo indispensabile, se proprio volete pensare male. Ma insomma, non cambia molto. La Lombardia è la regione col più alto tasso di investimento criminale d'Europa. Milano è la capitale, in questo senso, degli investimenti criminali. Lombarda è l'economia in cui si infiltrano. Lombarda è la sanità in cui si infiltrano. Lombarda è la politica in cui si infiltrano. L'organizzazione, come al sud, cerca il potere della politica e al nord interloquisce con la Lega. Questo invece era lo scrittore Roberto Saviano, che denuncia la presenza mafiosa al nord e, prima dell'arresto di Iovine, scatena la polemica con il ministro Maroni, che chiede di poter replicare, in alternativa minaccia querela. Poi l'arresto del capo mafioso, le cose cambiano, naturalmente tutti attendono ora lunedì prossimo, con un fantastico meccanismo di promozione che si alimenta di settimana in settimana intorno a questa trasmissione. Ma restiamo sul tema. Da Focus Economia, il tema dunque non cambia, il taglio è quello dell'impresa di Milano, della sua operosità, ma anche in vista dell'Expo. Simone Spezia ne ha parlato con il presidente dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori, il presidente Paolo Buzzetti. Le note dolenti oggi dalla direzione investigativa antimafia, presidente Buzzetti, che riguarda l'allarme lanciato sull''ndrangheta e l'interazione con ambienti imprenditoriali lombardi, e in particolare l'allarme per quanto riguarda l'Expo. Chiede, dice la DIA, serve un razionale programma di prevenzione che consenta di bloccare le possibili infiltrazioni in previsione delle opere previste per l'Expo 2015, e parla espressamente, insomma, di imprese che fanno direttamente riferimento alle organizzazioni criminali, a questa organizzazione criminale. Come la vedete, cosa pensate di fare? No, la vediamo che hanno ragione, bisogna assolutamente, la crisi sta peggiorando, come dire, sta aumentando il pericolo, perché naturalmente la possibilità di acquisire aziende, la possibilità di penetrare profondamente nel tessuto economico è maggiore in un momento di difficoltà che non in un momento in cui le cose vadano bene. Quindi è correttissimo intervenire in maniera preventiva, sicuramente sull'Expo e sicuramente in generale su tutto il mondo, ovviamente parlando di edilizia, ovviamente laddove in difesa delle imprese, evitando e acquisti e intervenendo nel campo degli appalti o comunque dei lavori anche privati. Come fare? Noi ne abbiamo suggerite tante nel tempo, come le white list, cioè le liste dei fornitori più a rischio nelle prefetture, come diciamo anche il concetto condiviso, purtroppo è stato mal messo in campo, che è quello della tracciabilità finanziaria, che è un concetto giusto, è stato messo male in campo perché ad agosto è uscita la legge senza, diciamo, linee guida applicative, ha creato moltissimo disagio fra di noi, lo dico con grande chiarezza. Peraltro il Consiglio dei Ministri ha varato delle spiegazioni importanti, Presidente, con un decreto legge proprio l'altro giorno, e questo lentamente porterà a normalizzare la situazione. Nicola Gratteri, classe 58, da Gerace, Locride, terzo di cinque figli di una famiglia umile, giurisprudenza Catania, laurea in 4 anni, poi la magistratura. Attualmente è uno dei magistrati più noti della DDA. Impegnato in prima linea contro l'Ndrangheta, vive sotto scorta dall'aprile del 1989, ripeto, 1989, praticamente la vita professionale. Il 21 giugno del 2005 i ROS dei Carabinieri hanno scoperto nella piana di Gioia Tauro un arsenale che sembra fosse proprio dedicato a lui. Intanto le chiedo allora che la mafia anche al nord sia molto molto infiltrata, anche la direzione investigativa antimafia lo ha certificato nell'ultima relazione al Parlamento. Lei da tempo dice che la capitale dell'Ndrangheta è Milano. È una provocazione o no? Guardi, io dico da più di 20 anni che l'Ndrangheta è molto presente in Lombardia, in Piemonte, anzi addirittura in Piemonte abbiamo prove processuali sin dalla metà degli anni 70. Ci sono locali di 'Ndrangheta che sono delle strutture basi, cloni di quelli di Platini, di San Luca, di Natile, di Africo. Quindi la presenza dell'Ndrangheta nel nord è provata processualmente, anche se ogni tanto qualche uomo delle istituzioni, mi riferisco ad esempio al prefetto di Milano o qualche politico che dicono che dov'è l'Ndrangheta, fatemela vedere. Penso che le operazioni anche degli ultimi anni dovrebbero dimostrare che è così. Dimostrare che l'Ndrangheta c'è. Effettivamente l'Ndrangheta... c'è stata questa polemica di recente, il prefetto Lombardi di Milano disse... Sì. Allora, l'Ndrangheta, guardi, è più forte e più arrogante di prima, perché è più ricca. Noi non dobbiamo considerare la presenza della mafia o il successo o l'insuccesso nei confronti della mafia dal numero degli arrestati o dal numero degli agenti catturati. Noi misuriamo il grado di vivibilità della società, cioè noi dobbiamo capire se una famiglia può costruirsi una casa senza che il mafioso del paese o della periferia della città importante non gli imponga chi deve fare le fondamenta, chi deve costruire il bagno, chi deve costruire gli infissi. Da qui si misura la presenza della mafia, non del numero degli arrestati, perché se noi ad esempio da gennaio ad oggi abbiamo arrestato 1000 presunti mafiosi in provincia di Reggio Calabria, se io le dico che ci sono 10.000 ndranghetisti in provincia di Reggio Calabria, dov'è il successo? Cioè come si fa poi a dire che la mafia è alle corde, che l'Ndrangheta è alle corde, è nervosa e quindi mette le bombe a Reggio Calabria? Al nord la mafia c'è e si comporta, l'Ndrangheta c'è e si comporta esattamente come si comporta in Calabria. Noi in Calabria abbiamo la prova che politici sono andati a casa di mafiosi a chiedere i voti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni politici ritengono la mafia, l'Ndrangheta, un interlocutore forte che ha un pacchetto di voti e quindi si va a chiedere i voti. Sì. Alla mafia. Non è più l'Ndrangheta che offre il pacchetto di voti, certo. Politici che vanno a chiedere i voti. Io, procuratore, nel ringraziarla, nel salutarla, le faccio questa domanda, poi mi risponda se vuole o no. Quando Saviano dice al nord, siccome la mafia, tutte le criminalità interloquiscono con il potere, chiaramente, la mafia al nord interloquisce con la Lega, è una frase condivisibile o no? Non le posso rispondere perché ci sono delle indagini in corso. Io posso parlare, cioè di fatti specifici non ne posso parlare perché lei, come vede, parlo solo di cose già passate in giudicato. Siamo in fase di indagini, quindi non le posso rispondere a questa domanda. La notizia buona di questa settimana l'abbiamo data in testa, ma la guerra evidentemente continua. E allora, prima del nostro consueto punto e a capo, diamo la parola al nostro impertinente Dario Ceccarelli per il suo graffio. Grazie alle intercettazioni telefoniche, preso il boss dei Casalesi. Che tempi! Non si disturba così la privacy di un capo. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Punto e a capo. Hanno circondato l'auto della polizia dove io ero seduto, hanno rotto il vetro posteriore dell'auto e poi c'è stato un arresto. Voi dite al Ministero dell'Interno: aiutateci perché altrimenti c'è un rischio guerriglia. Eh sì, il rischio non è mai stato assopito. Qui in studio questa mattina con me Raffaella Calandra, che ci porta questa voce, voce di un sindaco, sindaco di Bosco Reale. Allora, innanzitutto buongiorno Raffaella. Ciao Gigi, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Allora, perché quest'uomo si sente minacciato? Questo sindaco è stato minacciato dopo un acceso consiglio comunale notturno perché si discuteva di rifiuti, e a Napoli, in tutto il napoletano, c'è sempre tensione massima, e un gruppo di persone voleva che lui firmasse all'istante, cioè in una seduta notturna del consiglio comunale, un'ordinanza che bloccasse il passaggio nel suo comune dei camion diretti ad una discarica, ordinanza che lui poi ha firmato il giorno dopo e poi revocato dopo 48 ore. Questo tanto per ridarci un quadro della situazione. Allora Raffaella, tu sei stata in campagna questa settimana, insomma, Napoli come l'hai trovata? L'ho trovata messa male. Vi dico soltanto che ho visto una collina, letteralmente, di rifiuti in via De Petris, e dietro si vedeva troneggiare il maschio angioino. Una foto perfetta per i click dei turisti, ahimè molto triste per la situazione di Napoli. Ho visto cumuli di immondizia in via Medina, a due passi dal comune, dove questa immondizia lambiva anche vetrine di negozi storici, e ovviamente i negozianti si preoccupano, così come si preoccupano gli artigiani della via dei Presepi, San Gregorio Armeno, che se l'anno scorso avevano introdotto tra le loro statuine quella di Berlusconi con la bacchetta magica in mezzo ai cumuli di rifiuti, ora stanno pensando a quale altra immagine introdurre nel presepe, visto che l'emergenza è ritornata. Ecco, Raffaella Calandra da Napoli, dalla campagna, ci porta anche alcune immagini sonore, naturalmente, che sentiamo subito insieme. Non è mai finita l'emergenza. San Gennaro squaglia solo sangue, poi basta, se ne faccio un miracolo. Sta spazzatura per tutto, noi non ce la facciamo più. Davanti alla vetrina, ma è da una settimana che non c'è nessun rimedio, nessuna soluzione. Siamo praticamente dietro Piazza Borsa e qui c'è un muro di immondizia lungo almeno, direi, 15 metri e alto 1,5 forse. Sì. Ogni mattina che passo sento questo tanfo, cioè questa puzza di immondizia che sarà pure una settimana buona. Soprattutto per noi che ci viviamo. Dovete stare con le finestre chiuse in casa? Sì, sempre. Il Vesuvio, si può dire, sono 15 giorni che sta questa spazzatura che non viene tolta. Quasi come se fosse un isolato. Sì, cominciano a comparire topi. E qui ci passano anche le macchine, fanno lo slalom tra i rifiuti. Sì, perché in altro po', come vedete, la spazzatura arriva per la strada, quindi non... La cosa più bella è che la sera a mezzanotte passa il camion dell'Asia che mi pulisce il marciapiede. La cosa proprio più ridicola. Togli i mozziconi, queste cose qua, la carta, ma niente di che. Sotto la finestra un vessuio di spazzatura e pagare 410 euro all'anno di spazzatura per me non è giusto. Allora, Raffaella, l'abbiamo detto all'inizio, noi oggi siamo molto per le buone notizie, ma in questo caso purtroppo non ne vediamo. Oggi pomeriggio, nuovo appuntamento naturalmente sulla vicenda di Napoli, quando? Alle 13.30 in Storiacce, per occuparci però di un altro fronte, anche se è molto affine a quello dei rifiuti, perché quello dei rifiuti è uno degli affari più tradizionalmente, diciamo, di interesse del clan dei Casalesi. Ci occupiamo della cattura del superboss Antonio Iovine con due protagonisti, il procuratore aggiunto Cafiero De Rao e il giudice che emise la sentenza Spartacus, Raffaello Maggi. Grazie Raffaella Calandra. Grazie a voi. Punto e a capo. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? I sondaggi della settimana. Riepilogo dei temi della settimana, naturalmente secondo noi, secondo bianco o nero. Allora sentiamo quali sono stati i quesiti che Alessandro Milan vi ha posto la mattina, ogni mattina di questa settimana. Lunedì 15 novembre. Telecamere negli asili come deterrente per le violenze. Siete d'accordo? Sì, 62%, no, 38%. Martedì 16 novembre. Brescia. Immigrati sulla gru per permesso di soggiorno. È una protesta condivisibile? Sì, 39%, no, 61%. Mercoledì 17 novembre. Malattia mentale. Secondo voi andrebbe rivista la legge Basaglia? Sì, 83%, no, 17%. Giovedì 18 novembre, scontro Saviano-Maroni. Voi da che parte state? Saviano 52%, Maroni 48%. Venerdì 19 novembre, mamme a 50 anni, atto di amore o di egoismo? E questo ovviamente era l'ultimo dei quesiti di bianco o nero. 3 ascoltatori su 4 in definitiva lo definiscono un atto di egoismo. O chissà, magari si tratta solamente di una forma di amore per se stessi. Punto e a capo. Eccoci arrivati alla nostra pagina politica. Non ci può essere un governo tecnico, ci siamo io e Berlusconi contrari. Se il Presidente della Repubblica lo facesse, provocherebbe una reazione del Paese troppo forte. Così il leader della Lega, Umberto Bossi, risponde a fine settimana a chi lo interpella sulla possibilità di un governo tecnico. Una settimana che è iniziata ovviamente di lunedì con i Fignani che sono usciti dal governo. Come annunciato, hanno rimesso i loro incarichi nelle mani del premier Berlusconi, dimissioni irrevocabili quelle del ministro Ronchi, del viceministro Urso e dei sottosegretari Menia e Buonfiglio. È venuto meno il rapporto di fiducia con l'esecutivo, ma per responsabilità voteremo la finanziaria. Hanno fatto sapere i Fignani, che ribadiscono le loro richieste, dimissioni di Berlusconi e un nuovo governo con Casini, Rutelli e Lombardo, che ieri ha ritirato il suo unico sottosegretario. In caso contrario la minaccia è quella di votare la sfiducia, fanno sapere i futuristi, fra i quali c'è chi guarda anche ad una possibile alleanza con il PD, un'ipotesi su cui Bocchino si mostra comunque cauto. Noi siamo culturalmente e politicamente ancorati nel centrodestra, quindi alleanze spurie possono nascere solo in caso di emergenza e noi auspichiamo che l'Italia non viva un caso d'emergenza. Oltre all'uscita dal governo, ieri i Fignani hanno annunciato anche che l'Assemblea Costituente di Futuro e Libertà si terrà a Milano dal 14 al 16 gennaio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il governo avrà dunque la fiducia sia alla Camera che al Senato il 14 dicembre? Penso proprio di sì, prosegue il leader della Lega, Bossi. E in caso che questo non avvenisse, sempre secondo lui, la via maestra resta quella del voto. Ai cronisti che gli chiedevano se confermasse i sondaggi che darebbero PDL e Lega vincenti in caso di voto, Bossi ha replicato sorridendo: «Sì, avevate dei dubbi? Se Berlusconi è saggio, va al voto e ritorna. Prenderebbe un sacco di voti in più». Così parla Umberto Bossi alla fine della settimana politica. Punto e a capo. Altro tema, altra pagina. Espulso giovedì verso il suo paese l'egiziano che ha sostenuto la protesta del gruppo di immigrati che per 15 giorni sono stati in cima alla gru a Brescia. L'immigrato è stato fermato lunedì, portato in via Corelli e dopo la convalida dell'arresto a Malpensa, dove è stato appunto espulso giovedì. L'espulsione riafferma il principio della legalità e, commenta il vice sindaco di Milano Riccardo Decorato, lancia un messaggio importante. Il ricatto alle istituzioni non può e non deve pagare. A questo punto, dice, auspico che dopo le opportune valutazioni la stessa fermezza sia applicata nei confronti degli altri clandestini che hanno protestato in via Imbonati. E infine Emma Bonino: è stato un atteggiamento fuori posto, dice, non ci sono muscoli da mostrare, ma bisogna sedersi al tavolo a ragionare. Ancora Brescia, come una sorta di macchina del tempo, ci riporta alla cronaca degli anni oscuri del terrorismo e dello stragismo. Brescia, per quelli della mia generazione, significa anche, soprattutto, strage di Piazza della Loggia. Significa un'Italia che uccide senza individuare i responsabili. E certo questa sentenza lascia l'amaro in bocca. Non per voglia di giustizialismo, ma perché è inevitabile pensare alle famiglie, alle vittime, ai figli, alle figlie, chiedersi come ci sentiremmo noi se a 36 anni di distanza ci dicessero che per la loro morte nessuno è colpevole. Sentiamo il commento di Daniele Biacchessi. Già, 36 anni dopo, 5 istruttori, un imputato come Armando Buzzi ucciso nel carcere di Novara nell'81 dai neofascisti Pierluigi Concutelli e Mario Tuti mentre stava collaborando con la giustizia. Ripetute accuse e ritrattazioni di pentiti, gravissimi depistaggi di uomini delle istituzioni, sottrazione di importanti prove documentali da parte di funzionari infedeli dei servizi, reticenze, silenzi, poi condanne, assoluzioni fino all'ultima. Sulla sentenza di ieri hanno certamente pesato i pronunciamenti assolutori più recenti, quelli per le stragi di Piazza Fontana e Questura di Milano, poiché alcuni imputati erano comuni alla nuova inchiesta su Piazza della Loggia. Ma non è normale un paese che impiega 36 anni per assicurare alla giustizia i colpevoli mandanti di stragi efferate e politiche, come quella di Piazza della Loggia, Piazza Fontana, Questura di Milano, Treno Italicus, che non cerca i mandanti per la strage alla stazione di Bologna del rapido 904, e soprattutto una politica che non rende ancora oggi operativi i regolamenti applicativi della legge sul segreto di Stato licenziata dal Parlamento 4 anni fa. L'unica cosa a cui penso sono quegli 8 morti innocenti di Sciamaro Maglio Milani, il presidente dei familiari delle vittime di Piazza della Loggia. Oggi si può solo dargli ragione. Punto e a capo. Ultimi minuti di questo nostro appuntamento settimanale con Punto e a capo. Vertice NATO ieri e oggi a Lisbona, una buona opportunità per rafforzare l'alleanza e per definire un approccio più preciso dell'impegno in Afghanistan, questo secondo Barack Obama. Anche quando si sarà conclusa la transizione con il passaggio delle responsabilità militari alle autorità afghane, il paese, dice il presidente degli Stati Uniti, non sarà abbandonato a se stesso. Al summit, ha confermato Obama, intendiamo armonizzare il nostro approccio in modo da poter lanciare il periodo di transizione che deve portare appunto gli afghani a prendere in mano il proprio destino e la propria sicurezza. Tutto questo entro la fine del 2014. Il capo dello Stato afghano, giunto a Lisbona, incontrerà Obama questa mattina, così almeno è previsto. Ha chiesto che il processo di transizione sia appunto concluso per la data definita del 2014. Incontro anche tra Obama e Medvedev, il presidente russo, dopo il gelo del Senato americano sul progetto Star 2 per la riduzione dell'arsenale nucleare, nella capitale portoghese si ripresenta anche una versione aggiornata di un grande classico dei rapporti Mosca-Washington, lo spionaggio. Mario Platero ne parla con Maurizio Molinari nel consueto appuntamento di America 24. Quando si sono incontrati a Yokohama attorno al tavolo di legno al terzo piano dell'hotel Intercontinental, Obama sorrideva e la realtà vera è che Medvedev era furioso. E la volta precedente che si erano visti a Washington erano passate 48 ore e Obama aveva smantellato la rete di spionaggio messa su nei decenni precedenti dal servizio segreto russo, mandando su tutte le furie Medvedev. Ovviamente non ne hanno parlato, ma era nell'aria, e questa è la storia che ci portiamo anche dietro a Lisbona, una guerra di spie feroce che ruota attorno a un personaggio sexy, avvenente, molto brillante, seducente come Anna la Rossa. Ecco, ma c'è stata una notizia su Anna la Rossa, cioè è stata tradita dal suo capo in Russia, o sbaglio? Questo è stato l'ultimo colpo di scena. Si pensava che fosse stata lei a beffare gli americani per tanti anni, in realtà era gestita da un super 007 russo che faceva la spia per gli americani, al punto che è stato lui a tradire lei e l'intero network solamente 2 giorni prima del summit precedente a giugno fra Obama e Medvedev, sparendo letteralmente nel nulla. Nessuno di noi sa dove il colonnello Shekfol è finito, ma probabilmente Obama, io credo sia uno dei pochi a sapere dove si trova. Tutt'altra complessità, ma quanta passione, quanta curiosità intorno a questo affair che ci porta invece a Londra. È inevitabile. Ogni secolo che si rispetti deve avere un matrimonio del secolo, altrimenti che secolo è? Ed eccolo finalmente annunciato dopo tante voci di corridoio regale. Il principe William d'Inghilterra, primogenito di Carlo e Diana, il cui matrimonio fu quello del precedente secolo con l'esito che sappiamo, ha ufficializzato il fidanzamento con l'eterna compagna Kate Middleton, preludio appunto a un prossimo matrimonio nel 2011. La notizia ha dominato ieri sui media britannici con in testa la BBC. Del resto, per il Regno Unito non si tratta di semplici nozze, ma di un affare di Stato. Il primo ministro David Cameron, infatti, non solo si è detto felice, ma ha immantinente creato un'apposita commissione intergovernativa per stabilire il giorno adatto per la cerimonia. La Gran Bretagna torna così a sognare per William e Kate, 28enni inseparabili, tranne una breve rottura, da 9 anni, da quando cioè si conobbero all'università scozzese di St. Andrews. Lei, nipote di minatori e figlia di un hostess e di un ex impiegato, diventati ricchi grazie a un servizio di vendita per corrispondenza di gadgets per festicciole di bambini, non ha una sola goccia di sangue blu, ma il futuro erede al trono innamorato le ha dato l'anello di fidanzamento della madre, Lady Diana, e con la benedizione della regina Elisabetta anche Kate l'anno prossimo diventerà principessa, a 30 anni esatti dalle nozze di Carlo e Diana. Si spera però con esiti migliori. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. In conclusione, una notizia di spettacolo che è anche un invito proprio per questa sera. Infatti un tour lungo più di un anno per festeggiare 20 anni di carriera. Si chiude questa sera all'Auditorium di Milano Rolling Live di Massimo Priviero. Il rocker italiano è stato intervistato da Marta Cagnola per il GR Spettacoli del 19 novembre. È stato un bel viaggio, abbiamo fatto moltissimi concerti, fortunatamente diciamo che l'album è andato anche molto bene, il libro, la biografia che era uscita anche contemporaneamente anche, e quindi c'è stata molta energia, molta poesia, molta emozione, molta forza, ed è quella che cercheremo di tradurre soprattutto in 20 quando chiuderemo tutto alla Vittoria di Milano. Ricorre spesso il resistere, la resistenza sia nei testi delle canzoni che nella dedica ad Alexander Langer, è così? L'idea di umana resistenza è un tratto fondamentale di tutte le cose che scrivo, e quindi l'idea di difendere fino in fondo le cose in cui si crede sia, appartiene a chi cerca di stare al mondo in un certo modo, cerca di vivere davvero, cerca di tener saldo quello che ha e quello che è, e di dare un senso importante per quello che può alla propria esistenza. Quindi questo io lo faccio attraverso la musica, perché è il mio linguaggio, ma la musica e le canzoni che faccio, i concerti che faccio sono sempre la traduzione di quello che sono nella vita di tutti i giorni. Senti, a proposito di Nessuna resa mai, una ventina d'anni fa direi, c'era lo zampino di Steven Sant, di Little Steven. In questo periodo si parla tanto del boss. Che impressione ti fa questo? Due palle. No, ma figurati, l'impressione è di un artista straordinario. Ovviamente io ho avuto questo privilegio 20 anni fa probabilmente di essere l'unico europeo ad essere prodotto dal suo grande braccio destro, cioè da Steven, e con cui è rimasta una grande amicizia, una grande comunità di modo di pensare, di modo di vivere la musica. Springsteen è sicuramente stato uno dei più grandi, è uno dei più grandi del mondo, sicuramente lo è sul palco, spesso molto di più delle sue ultime produzioni, che possono essere più o meno sentite come dei grandi dischi, però tu vai a vedere un concerto di Bruce e vedi sul palco che cos'è l'essenza del rock, dell'energia, dell'amore che si cerca di comunicare dal palco alla gente che li prende. Quindi insomma, alla fine mi hai dato una bella definizione di rock che mi pare che stiamo un po' condensando in energia e in amore. Sì, mi sembrano due termini appropriati, soprattutto nello scambio di se questo si traduce in uno scambio di emozione, in uno scambio di forza, perché penso che mai come in questi tempi abbiamo bisogno di questo tipo di comunicazione, di questo tipo di condivisione. Quando si scrive si fa un atto comunque di solitudine, superata la fase di creatività, la fase diciamo di necessaria solitudine, si vuole condividere questa cosa. E se si riesce a condividerla nella maniera intelligente, dando l'emozione intelligente, dando la carezza giusta, possono succedere le cose non raccontabili da quanto belle possono essere, quindi succede una specie di miracolo ogni volta. Bene, con questo noi abbiamo davvero concluso il nostro appuntamento. Un ringraziamento ancora a Pietro Lacorte questa mattina in regia, un saluto da parte mia, naturalmente l'appuntamento è per la prossima settimana e come sempre sul web www.radio24.it per sentire, risentire questo e tutti i programmi di Radio 24. Un buon fine settimana a tutti.